l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddi e benvenuti all'Altra Europa. Come ogni settimana siamo qua con il nostro appuntamento per raccontarvi l'Europa anche da altri punti di vista, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa dei progetti, anche l'Europa delle sue criticità. Tutto ciò con questo programma in collaborazione con il network Euronet Plus, le coordinate virtuali per trovarci, euronetplus.eu, il portale dove trovare tante inchieste, tante reportage in tante lingue diverse, radio24.it invece il nostro sito, sui social network @ Federico Taddi, il mio account personale per seguirci e per trovare in diretta minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana un viaggio, ogni settimana tanti punti di vista, tanti argomenti. Oggi partiamo da quella che è una delle notizie dell'attualità italiana, ma non solo, l'orso bruno. Regione Abruzzo ha una particolare responsabilità nei confronti della conservazione dell'orso. È necessario che vengano svolte delle attività di sensibilizzazione e di educazione non soltanto presso tutti gli strati della popolazione, ma soprattutto presso quelli più sensibili, che sono i ragazzi in età scolare. La storia del Parco d'Amello Brenta è legata molto, in maniera molto intima, con quella dell'orso. Il Parco d'Amello Brenta infatti è nato per proteggere gli ultimi orsi presenti sulle Alpi centrali. C'è un futuro. Quello che state ascoltando è l'introduzione di un video bellissimo, dura una mezz'oretta, lo potete trovare sul sito live, lineettaarctos.it. Live Arctos è un progetto europeo per la conservazione dell'orso bruno, un progetto finanziato dalla Commissione Europea Life Plus Natura, e questo progetto è alla base del lavoro che si sta facendo da anni per introdurre questo animale. Se ne sta parlando tantissimo in queste ore per gli ovvi motivi di cronaca. Volevamo capire di più, volevamo capire perché l'Europa finanzia fondi, qual è il lavoro, la struttura di questo progetto. Lo facciamo con Isabella Pratesi, che è la responsabile progetti di conservazione internazionale WWF Italia. Ciao Isabella, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Un progetto importante, un progetto attivato già da qualche anno. E ci puoi sintetizzare un po' le coordinate, gli obiettivi di questo percorso? Il percorso è quello di conservare in Europa l'orso bruno. Non tutti sanno che l'orso bruno è una di quelle specie che ha un grande valore proprio per la comunità europea, perché la comunità europea ci dice che ci sono alcune specie che hanno veramente svolgono un ruolo essenziale per gli equilibri ecologici, per il loro valore culturale, e fra questi c'è l'orso bruno, per cui da tanti anni oramai l'Europa proprio investe per la conservazione di questa specie, e lo fa con dei partner importanti come il WWF. E possiamo dire che il WWF ha avuto una grande passione per l'orso bruno proprio da quando è nata la nostra organizzazione. Abbiamo sempre fatto il possibile per difendere questo animale, così come per difendere il lupo, come difendere questi animali che erano considerati alcuni anni fa in Italia ancora animali nocivi, animali da abbattere. Tant'è vero che sulle Alpi ne erano rimasti non più di 10 individui, per cui il WWF ha chiesto all'Unione Europea di lavorare insieme per difendere quegli ultimi individui sulle Alpi, ma anche il nucleo di orsi che ancora vive sugli Appennini, e di fare un grosso progetto. Questo grosso progetto è diventato poi negli anni il progetto Arctos, che vede un coinvolgimento di amministrazioni, di regioni, di aree protette per difendere gli orsi in Italia. Abbiamo raggiunto dei risultati bellissimi, perché grazie al nostro progetto quasi l'80% dei danni che facevano questi animali, quindi del fastidio che provocavano alle comunità locali, è stato ridotto. Quali sono questi strumenti? Sono tantissimi, che noi promuoviamo, ad esempio l'utilizzo di recinti elettrificati per evitare che l'orso possa avvicinarsi alle greggi, però abbiamo anche fatto tantissime attività di sensibilizzazione ed educazione che, come dicevamo all'inizio, è così importante. Quello che è successo in questi giorni può mettere a repentaglio questo progetto o può creare anche conseguenze burocratiche per quello che riguarda l'avere i fondi? No, allora, questo progetto, per fortuna, questi errori clamorosi dovuti, speriamo, soltanto a superficialità e, diciamo, a calcoli sbagliati, non possono mettere a repentaglio un'iniziativa bellissima che è quella di reintroduzione dell'orso sulle Alpi, che appunto negli ultimi anni è stato dedicato moltissimo al riportare l'orso proprio sulle Alpi, da cui erano praticamente scomparso. Sulle Alpi italiane ne erano rimaste, appunto, come dicevamo, non più di 10 individui. Sono stati raggiunti dei risultati bellissimi, perché adesso ci sono più di 50 orsi. Certo, dobbiamo dire che il modo in cui sono stati gestiti questi ultimi accadimenti ci ha veramente sconfortato. Noi siamo assolutamente furiosi, stiamo facendo lavorare il nostro studio legale per capire chi è responsabile, che cosa è stato sbagliato, se non ci fosse veramente una sorta di azione voluta rispetto a questi orsi che erano stati considerati problematici, ma che problematici non sono, perché è il secondo orso che viene ucciso proprio dalla provincia di Trento, con la dichiarazione che devono essere anestetizzati per essere presi, spostati, messi in cattività, e muoiono. Allora qui o qualcuno non sa fare il proprio lavoro, o c'è veramente una premeditazione rispetto al fatto di liberarsi di orsi che possono essere considerati difficili, ma che difficili assolutamente non sono. Basta fare delle azioni di previsione, delle azioni che possono in qualche modo mediare tutto quello che succede invece quando non vengono prese in considerazione. Life Linetta, arctos.it, vi ripeto, è il sito, tanti materiali didattici, tanti materiali molto concreti. Prima ci parlavi di queste recinzioni elettriche, qui viene spiegata anche come fare richiesta, immagini, video molto belli da utilizzare anche nelle scuole. Grazie davvero Isabella Pratesi, responsabile progetti di conservazione internazionale WWF Italia. Buon lavoro, in bocca al lupo. Ciao Isabella, grazie. In bocca all'orso che tutti vogliamo vivo e felice sulle Alpi e sugli Appennini. Grazie davvero. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. European Volunteer Service Annual Event 2014. La città di Milano ospiterà dal 12 al 14 novembre lo European Volunteer Service Annual Event 2014, un evento dedicato al servizio volontario europeo, ai volontari che stanno per partire, a chi fosse interessato all'esperienza ed anche a chi è appena tornato. L'obiettivo è quello di riunire più di 250 volontari e creare un momento di incontro e riflessione tra coloro che sono rientrati in Italia dal loro SVE, condividendo le esperienze, valutando il percorso fatto e le opportunità che li attendono. Ad ascoltarli e a rispondere alle loro domande saranno invitati i rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento, del Ministero del Lavoro, del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e delle altre agenzie nazionali italiane che gestiscono il programma Erasmus. A loro si uniranno 50 giovani tra i 17 e i 30 anni interessati a svolgere il servizio volontario europeo. Siete interessati? Per conoscere i dettagli dell'evento e per iscriversi a partecipare, andate sul sito dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, agenziagiovani.it. L'altra Europa. We're at the beginning of a new commission. We have an exceptional opportunity, but also an obligation to make a fresh start and get down to work to address the very difficult geopolitical situation, to strengthen the economic recovery and to build a united Europe that delivers job and growth to citizens. Il neo commissario europeo Juncker che parla, ha presentato la sua squadra, ha presentato il suo team, i suoi 27 giocatori, insomma una squadra bella variegata, 9 donne, 7 vicepresidenti, 5 ex primi ministri, 4 ex vicepremier, 19 ex ministri nazionali, 7 membri di precedente commissione, insomma un bel album, tipo figurine Panini che oggi vogliamo vogliamo sfogliare per vedere un po' quelle che sono così le personalità di spicco, quelli che possono essere i punti critici, quelle che possono essere anche le contraddizioni all'interno di questa squadra. E lo facciamo con Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles della Stampa. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao a tutti voi, è un ciao. Piacere essere qua. Ti sei divertito in questi giorni a tentare a fare un po' l'identikit dei nuovi commissari? Vabbè, dai, lavorare e anche divertirsi se sei fortunato, e per ora è andata bene. Che squadra è? Cosa ne è uscita da queste settimane di contrattazione tra i vari stati membri? È una squadra molto politica, più politica della Commissione Barroso. È una squadra organizzata in un modo molto complesso, con uno schema di gioco che può funzionare o può non funzionare, questo lo vedremo, perché offre opportunità ma anche dei rischi, ed è una squadra che riflette perfettamente quello che è l'Unione Europea adesso, quindi è di nuovo figlia dell'Europa ed è figlia di questa Europa, quindi i giocatori riflettono le squadre da cui vengono. Ne fare la presentazione, tanti ex in ruoli diversi, ex vuol dire anche magari portare esperienza, portare responsabilità. È una squadra però che guarda indietro o che guarda avanti? Deve necessariamente guardare avanti. Essere ex in questo caso non è necessariamente una caratteristica negativa, perché se prendiamo il già discusso Katainen, finlandese, vicepresidente per la crescita e connessi, lui ha 43 anni, è stato ministro delle finanze, è stato primo ministro in Finlandia, è il primo membro del Consiglio europeo e della Commissione aver fatto l'Erasmus, che ha deciso di interrompere o di sviluppare la sua carriera di politico in patria per venire a fare il commissario UE, il vicepresidente della Commissione. Quindi è un ex che ha deciso di cambiare vita e di dare un secondo tempo europeo alla sua carriera di politico. Marco, chi sono i fuori classe di questa squadra? I fuori classe, beh, senza dubbio Juncker, che qualcuno scherzando, ricordando le chiacchiere sulle sue abitudini, ha definito un politico di lungo sorso, è senza dubbio l'uomo più esperto che c'è nella Commissione, ha 60 anni, è stato primo ministro per 20 anni, è stato presidente dell'Eurogruppo, è un grande mediatore, è un centrista popolare gradito alla Merkel, ma allo stesso tempo anche un'anima sociale, che lo hanno spesso reso il più a sinistra, il più sociale dei ministri del PPE, cioè del Partito Popolare Centrista. Oltre a lui, a me piace molto Timmermans, che è l'olandese, è un laburista, è un uomo della sinistra moderata olandese, comunque liberale, che conosce bene il mondo, e questo lo aiuterà, perché deve in qualche misura tagliare quello che si chiama il tappeto rosso, cioè la burocrazia europea, e deve fare da mediatore, deve essere l'ombra di Juncker, che ha detto mi deve sostituire quando fisicamente o mentalmente non ci sarò, che era una forma di autoironia profonda. Poi vedo soprattutto Katainen mi piace, vedo il francese Moscovici. E farei attenzione alla danese, alla Vestager, che è stata un'ottima ministra delle finanze e adesso avrà la competenza dell'antitrust, quindi è una da guardare. E poi non dimentichiamo Federica Mogherini. Come è stata accolta la sua nomina alla fine? Diciamo che alla fine la situazione non fa che migliorare, perché quando lei è stata nominata ministro degli esteri tutti l'hanno comparata con Emma Bonino. Emma Bonino è stato un politico di grandissimo rilievo, è uno dei simboli dell'Italia degli ultimi anni, e quindi tutti hanno comparato Mogherini con Bonino. In realtà nessuno conosceva Federica Mogherini e quindi è stato facile dire che, poiché nessuno la conosceva, non c'era niente da conoscere. Lentamente Federica Mogherini sta guadagnando consenso sia in Italia che in Europa, e rispetto alle critiche di luglio, quando Renzi la designò come possibile alto rappresentante europeo, cioè come ministro degli esteri dell'Unione Europea, le cose sono molto migliorate, le voci di corridoio, le bocche storte sono sostanzialmente scomparse. Lei parte bene e dovrà dimostrare di essere in grado di fare il suo lavoro, di essersi meritato l'incarico che ha ottenuto. che ha ottenuto. Uh-huh. E un po' di malumori sulla nomina, è vero che insomma, è una delle commissioni non principali, sto parlando di educazione, cultura, gioventù e cittadinanza, anche se è una cosa noi, a cui noi teniamo tanto, sto parlando dell'ungherese Navracsics, credo aver anche errato abbastanza la pronuncia, e ho colto insomma un po' in rete, un po' leggendo sui quotidiani qualche critica per le sue posizioni governative. Chiamiamolo Tibor perché poi il nostro ungherese è veramente di qualità altissima, devo ammettere, però in realtà ci sono dei commissari come Tibor che vengono da paesi che hanno problemi con l'Unione Europea. Ora, lui è stato il padre delle riforme costituzionali che ha chiesto di varare in Ungheria il premier Orban, che sono le riforme che l'Unione ha contestato, perché sono quelle che toglievano poteri alla magistratura e aumentavano il potere centrale, diminuivano la libertà di stampa, sono cose che a noi non piacciono. E pertanto c'è un po' di dubbio sull'uomo e sul personaggio e sulle sue radici. Io credo che lui sarà uno di quelli che rischierà molto in Parlamento europeo, ma occhio, non sarà l'unico. Marco, prima di salutarci, pochi giorni fa hai fatto anche una bella intervista a Barroso. Come l'hai trovato? Se ne va a casa, se ne torna a casa contento o fa fatica a mollare quella poltrona? Vabbè, i politici fanno fatica a scollarsi dalle poltrone comunque, non ho mai visto un politico, comunque sono rari i casi di politici che sono felici di lasciare il posto a un altro. L'ho trovato da un abbastanza dispiaciuto, sì, nel complesso per come è stata valutata la sua commissione. Ora, lui ha cercato di spiegare che cosa è successo, perché negli ultimi 5 anni c'è stata la peggiore crisi dagli anni 20, dagli, certo, anni 30, e l'Europa ha dovuto gestire l'emergenza, ha detto che non c'era la possibilità di imporre una visione all'Europa e dice noi abbiamo fatto quello che si poteva, e in effetti ha ragione, l'Europa in questi 5 anni ha fatto delle cose formidabili, tra cui l'unione bancaria, per dirne una, ha riformato il governo dell'economia, quindi le cose sono state fatte, però lui dice non c'è stata l'attenzione e non c'è stato il riconoscimento. Questo credo che per lui sia un rammarico molto importante, perché ha un po' l'impressione che verrà considerato il portatore di una presidenza un po' debole, un po' vaga, quando in realtà in questi 5 anni l'Europa ha fatto molte più cose di quanto i cittadini europei siano disposti a riconoscere. Grazie davvero Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles della Stampa, seguitelo anche su Twitter, il suo account è Strana Europa. Ciao Marco, grazie, buon lavoro. Ciao, buona giornata, grazie a te. Europost-it. Diventate anche voi Juvenes Translatores. Frequentate una scuola superiore? Vi piacciono le lingue? Potete iscrivervi con il vostro istituto al concorso annuale di traduzione Juvenes Translatores. Il concorso, giunto quest'anno all'ottava edizione, si svolgerà il 27 novembre in contemporanea in tutte le scuole selezionate. Verranno ammesse al concorso 751 scuole di tutti i paesi dell'Unione Europea e ognuna può iscrivere da 2 a 5 propri alunni nati nel 1997. Gli alunni dovranno tradurre un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 ufficiali dell'Unione Europea verso una delle 23 rimanenti lingue ufficiali. Le combinazioni possibili sono 552. Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l'identità europea. I traduttori della Commissione Europea, Direzione Generale della Traduzione, correggeranno e sceglieranno la traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori verranno invitati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione nell'aprile 2015. Per iscrivervi con la vostra scuola potete andare online e seguire il link ec.europa.eu/translatores. Avete tempo fino al 20 ottobre. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town, you give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. Promise of EU, la promessa dell'Europa, questo è il titolo del convegno che si sta tenendo a Roma, è iniziato ieri, continua oggi, due giorni per parlare, per discutere dell'importanza dell'integrazione culturale europea e il ruolo strategico rappresentato dal mondo mediatico, un convegno anche interattivo perché il pubblico è stato diviso in varie aree, gli euroscettici, neutrali, pro europei stanno discutendo una sorta di gioco di ruolo partendo dall'idea di un eurobarometro qualitativo realizzato per analizzare questioni di rilievo legate appunto alla percezione europea. Ne parliamo con Jaime Andrew, consulente in comunicazione della Commissione europea che ha lavorato all'evento e ai panel. Ciao Jaime, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come stanno andando i lavori intanto? Stanno andando molto bene, penso che il tempo accompagna anche il marco incredibile di Roma, sempre va a fine e molto, io dà della molta ispirazione a tutti i partecipanti, dunque ora c'è il lavoro ultimo per preparare le conclusioni e penso che ieri abbiamo avuto molto buoni dibattiti. E quali sono un po' i punti salienti che stanno uscendo dall'incontro, dal confronto tra dei partecipanti? Credo che possiamo un po' collegare con quello che è stato detto dal collega della stampa. Lei ha parlato che l'Europa, parlava quello che il pensiero del Presidente Barroso, che l'Europa ha fatto delle cose molto importanti questi ultimi anni, all'occasione della crisi, ma la percezione del cittadino non è la stessa. Io penso che possiamo riferirsi a una parola di Barroso nel 2012 quando ha detto che si finisce ora a questo punto una etapa nella storia d'Europa in quale è stato possibile fare il processo di integrazione per quello che si chiama un consenso implicito, ma questo non potrei farsi così da più. Dunque, a partire di questo momento dobbiamo integrare più il cittadino deve capire quello che l'Unione fa, quello che l'Unione pretende fare e questo a questo momento è la questione la più importante, come fare partecipare al cittadino. Dunque abbiamo demandato al cittadino a questo momento, quando dopo le elezioni europee, con una nuova commissione, con un nuovo Presidente del Consiglio europeo, con un nuovo marco istituzionale, che sperate voi dell'Unione Europea? E questo è il titolo della promessa. Questo è il titolo della promessa. Tutto ciò sta avvenendo al Maxi di Roma, l'evento in occasione del semestre italiano della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea e questa sera ci saranno le conclusioni su cui torneremo sicuramente la prossima settimana per capire cosa chiedono i cittadini. Grazie davvero Jaime, buon lavoro. Grazie. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, la pubblicità poi ancora qua con l'Altra Europa. Euro post-it. Due corsi per progettare in Europa. Due corsi base per formare cittadini e associazioni sulla progettazione europea. Li organizza TIA Formazione in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee. I corsi forniscono i primi strumenti per la presentazione di un progetto europeo e per la costruzione di un network di collaborazioni anche internazionali, seguendo i filoni di finanziamento proposti dall'Unione Europea, in particolare i fondi diretti, nella nuova programmazione 2014-2020. I corsi durano una giornata ciascuno e sono dedicati a due programmi, Europa Creativa ed Europa dei Cittadini, il 20 e il 27 settembre. La prima giornata dedicata a Europa Creativa approfondirà il bando European Cooperation, i cui obiettivi sono il rafforzamento della capacità del settore culturale e creativo a livello internazionale, la promozione della circolazione transnazionale delle opere e la mobilità degli operatori culturali e degli artisti. La seconda approfondirà con esempi pratici il programma Europa per i cittadini. Per saperne di più ci sono i siti del Dipartimento Politiche Europee, politicheeuropee.it oppure di TIA Formazione, tiaformazione.org. L'altra Europa. Sometimes it's easier to hide away when the winter comes and it's shorter days. I know the dark clouds won't stay. Tomorrow is gonna be better. Buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Federico Taddia, il mio account, ci trovate, mi trovate su Facebook, su Twitter, le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo e andiamo a toccare. Una nuova narrazione dell'Europa. Quante volte qui all'altra Europa abbiamo detto che c'è bisogno di un modo caldo, di un modo nuovo, di un modo diverso di raccontare questa Europa, perché al di là dell'Europa del palazzo, al di là dell'Europa della burocrazia, al di là dell'Europa della politica, c'è poi l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, l'Europa delle contaminazioni, l'Europa degli intrecci. Barroso ha lanciato qualche mese fa un progetto, un suo appello su una nuova narrativa dell'Europa, e questo appello è stato colto al volo anche da l'architetto Stefano Boeri, ideatore di un'iniziativa che è stata lanciata in questi giorni, si chiama The Tomorrow, un'agenda quotidiana online sul futuro dell'Europa, un altro tassello per raccontare l'Europa in un modo diverso. E Stefano Boeri qua con noi. Ciao Stefano, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti voi, grazie. Qual è la chiave? Che occhiali fa indossare a chi naviga online per far incontrare l'Europa attraverso The Tomorrow? Ma le chiavi sono due. Una è, l'hai detta tu, ed è un'agenda. Agenda di luoghi, non solo agenda di fatti. Quello che stiamo cercando di fare, ed è il nostro, è un appello, quindi ci stiamo muovendo con una rete diffusa di scuole, ricercatori, personalità del mondo del giornalismo diffusi in Europa, per in qualche modo raccontare i luoghi dove sta per succedere qualcosa di innovativo e di interessante in Europa, e questa è una delle due grandi mappature che facciamo con The Tomorrow. L'altra invece è una serie di conversazioni. Quindi di confronti intellettuali tra persone che hanno cose da dire sull'Europa? Ma sì, io credo questo. Adesso l'idea di Barroso e di questo tavola di intellettuali e artisti che ha lavorato per 2 anni sull'identità europea era quella di provare a capire come può essere la narrazione di un'identità per i prossimi decenni in Europa. E devo dire che abbiamo ragionato molto, è stata fatta una dichiarazione che è stata presentata qualche mese fa e che abbiamo discusso anche domenica scorsa a Venezia, alla Biennale, con Barroso e con i curatori delle Biennali. Il punto è, alla fine, quello di capire come è possibile costruire la narrazione di un'identità che è molto particolare, perché l'identità europea è un'identità che deve comporre delle diversità al suo interno. E questa cosa per me è fondamentale, e l'abbiamo detta, io la dico spesso citando una parte di una frase di Massimo Cacciari, che in un suo bellissimo libro, L'Arcipelago, dice, riferendosi all'Europa, una pluralità irriducibile di singoli elementi che coesistono anche in quanto separati, in quanto inevitabilmente separati. Questo è il punto. Come possiamo raccontare un'identità a partire dal riconoscimento di questi singoli elementi separati? Ma questa cosa è la forza dell'Europa, oltre che essere la sua caratteristica storica. Certo. Allora, l'idea delle conversazioni del carteggio è quella semplicemente di far parlare questi singoli elementi separati, riconoscendo la loro autonomia, ma facendo, come dire, della conversazione la parte fondamentale dell'identità europea. In fondo è stato così dai tempi di Platone, di Epicuro e di Seneca, è stato così quando Goethe, Schopenhauer o Voltaire, Rousseau o Kant e Constance scrivevano, carteggi che erano carteggi, diciamo così, privati, ma che diventavano pubblici e che erano scritti sapendo che sarebbero diventati pubblici. È stato così anche quando Einstein nel 1932 scrive a Freud e gli chiede cosa possiamo fare per evitare la guerra, cos'è la pulsione verso la guerra, c'è una risposta di Freud straordinaria. Ma insomma, allora, questo The Tomorrow.net è una piattaforma che fa dialogare, è uno supporto per una conversazione. E la cosa che abbiamo deciso di fare per essere efficaci è di scegliere per i carteggi moderni e contemporanei una forma che non può più essere quella della lettera scritta, perché o a noi o per fortuna non c'è più, non esiste più. E abbiamo pensato che l'email sia oggi una forma di comunicazione che consente un pensiero profondo, o comunque non il profondo pensiero frenetico intermittenza di WhatsApp o di SMS o di Twitter, e questi sono carteggi attraverso delle email che noi ospitiamo, stimoliamo, e serve a questo. TheTomorrow.net è appunto una piattaforma che seguiremo, di cui sicuramente sentiremo e parleremo ancora in futuro. Grazie davvero Stefano, complimenti a te e a tutto il tuo team per questo grazie ottimo lavoro. Grazie a voi, grazie ciao. Mille. Buon sabato. Ciao, ciao, ciao, grazie. Europost-it. Tirocinio nell'assistenza a disabili e anziani in Portogallo, Spagna, Germania e Slovenia. L'associazione CEIPES di Palermo promuove un progetto Leonardo che dà la possibilità a giovani fino a 30 anni in cerca di occupazione o che hanno appena finito gli studi di fare un'esperienza di stage nel campo dell'assistenza di anziani e persone con disabilità e migliorare la conoscenza di una lingua straniera. Le borse a disposizione sono 14 per stage di 12 settimane in cui viaggio, alloggio, corsi di formazione, di lingua e placement presso gli enti assistenziali saranno tutti spesati. Siete interessati? Visitate la pagina dell'associazione CEIPES. Per candidarvi c'è tempo fino al 20 settembre. CEIPES.org. I wanna marry a lighthouse keeper and keep him company. I wanna marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea. I'll polish his lamp by the light of day so ships at night can find their way. I wanna marry a lighthouse keeper, won't that be okay? We'll take walks along the moon. Voglio sposare il guardiano del faro, appunto, dice questa canzone. L'abbiamo usata per introdurre anche l'Europa che... L'Europa che non t'aspetti, no? Nell'andare alla ricerca dei progetti europei vai a toccare anche ambiti che è così magari non cogli o a cui non dai abbastanza attenzione. Insomma, e allora però poi ci sono dei numeri che ti riportano alla realtà. Pensate che in tutta la costa mediterranea ci sono oltre 1100 fari, di cui 322 in Italia. Stiamo parlando dei fari, stiamo parlando delle lanterne, stiamo parlando di quello che è un alfabeto storico, di quella che è una forma di comunicazione da centinaia di anni. Un patrimonio quindi culturale, un patrimonio artistico, un patrimonio anche funzionale, perché tanti di questi fari ancora svolgono benissimo il proprio lavoro. C'è un progetto europeo per il recupero dei fari mediterranei, ne parliamo con Antonello Carredda, che è responsabile della comunicazione dell'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste e capofila per il progetto di cooperazione transfrontaliera Med Faros. Ciao Antonello, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, come nasce questo progetto? Chi ha avuto l'intuizione di mettersi insieme per cercare di salvaguardare i fari? Allora, questo è un progetto che nasce, diciamo, un anno e mezzo, due anni fa, sì? Raccogliendo un partenariato di estremo pregio, appunto, di cui giustamente hai detto tu, la Conservatoria delle Coste della Sardegna è capofila, ma che vede anche altri quattro partner, tra cui in particolare il Conservatoire delle Côtes du Littoral, pardon, della Francia, l'Agenzia di Protezione dell'Ambiente della Tunisia, la Società per la Protezione dell'Ambiente del Libano e la Città di Tiro. Quindi quattro territori, Italia, Francia, Tunisia e Libano, che a partire da un patrimonio costiero di estremo pregio e di estrema anche quantitativamente, tieni presente che queste quattro nazioni che ti ho citato ospitano da sole il 50% del patrimonio costiero a cui tu prima hai fatto riferimento. Mm-hmm. Quindi la consapevolezza del valore culturale ed emozionale di questo territorio, di questo patrimonio costiero, di fari e stazioni semaforiche, ha portato alla ideazione di questo progetto che punta ad avviare un processo di recupero, di valorizzazione di questi beni. Certo. Antonello, scusami, ti chiedo un minuto di pazienza, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da te per capire in concreto questo progetto, in che modo opera. L'altra Europa. Un progetto per il recupero e la conservazione dei fari nel Mediterraneo. Ne stiamo parlando con Antonello Carredda, responsabile della comunicazione dell'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste. Antonello, in pratica questo progetto cosa chiede? Quali sono le azioni messe in atto? Allora, grazie ai finanziamenti del programma ENPI, Bacino del Mediterraneo, appunto finanziato con i fondi dell'Unione Europea, noi puntiamo a restituire alle comunità locali questo patrimonio costiero e lo faremo con una serie di attività, innanzitutto di catalogazione di questo patrimonio. Sì. In secondo luogo avvieremo un processo di confronto, tra virgolette partecipato, con i principali portatori di interesse, in primis la popolazione locale, ma anche le istituzioni ovviamente competenti e l'imprenditoria locale. Ma sono fari sono fari funzionanti o sono fari a cui bisogna trovare una nuova destinazione, nuova vita? La maggior parte di questi fari sono ancora funzionanti, hanno il problema serio è quello soprattutto dell'accessibilità delle zone propicenti il faro. Okay. E appunto il progetto punta a, in particolare, non tanto al recupero del faro in sé, che è un qualcosa che è anche più grande del progetto stesso, delle potenzialità economiche del progetto stesso, ma appunto in primis al recupero e alla messa, diciamo, all'accessibilità, mettiamola così, delle zone circostanti il faro, per favorirne appunto una fruizione più agevole, per favorirne una conoscenza anche del territorio, che spesso ignora la presenza di, diciamo, di scorci di spazio costiero che spesso vengono appunto ignorati o sconosciuti di più. In ultima istanza l'obiettivo è soprattutto quello di accendere una luce, quindi parlando di fari sembra un paradosso, ma accendere la luce su un patrimonio che può diventare anche fattore di sviluppo economico per, certo, il territorio, attraverso utilizzi e destinazioni d'uso economico, imprenditoriale, ma anche culturale. Si può pensare a dei musei del mare, della cultura della navigazione, e non soltanto a gestioni ad esempio di natura ricettiva. Certo, leggevo che in questo momento il progetto ci sono azioni sperimentali su 9 siti pilota in Sardegna, Francia, Tunisia e Libano, come ci hai detto tu, in particolare in Sardegna il faro di Sant'Elia a Cagliari e i fari e semafori delle isole di Sant'Antioco e Asinara, giusto? Esatto. E questi sono, appunto, in questo caso ci sono già dei progetti in essere. Allora, il valore aggiunto e il vero cuore del progetto Medfar è il confronto col territorio. Non abbiamo diciamo dei progetti strettamente preconfezionati. Okay. In fase progettuale abbiamo ipotizzato delle azioni che vorremmo andare a condividere con la popolazione locale nel corso di una serie di incontri che faremo da qui ai prossimi mesi. I risultati di questi incontri saranno proprio delle strategie, delle azioni più concrete di valorizzazione di questi fari. Al momento abbiamo previsto una serie di azioni minimali, come appunto la sistemazione dei sentieri, la dotazione di pannelli di informazione, l'allestimento di stazioni anche di osservazione, dalle quali appunto ammirare questi beni. Dopodiché Medfar vuole, come ti ho detto all'inizio, avviare un processo e noi speriamo che Medfar sia appunto il primo punto di partenza di un processo più ampio che veda nel recupero di questo patrimonio enorme un nuovo fattore competitivo, ad esempio per l'industria turistica mediterranea. Certo. Antonello, un'ultima domanda prima di salutarci, ma per queste comunità, che sono anche comunità piccole, il faro cosa rappresenta? Cosa rappresenta oggi? È comunque ancora ha un qualcosa di simbolico, ha un qualcosa di aggregante? Sicuramente il faro nell'immaginario collettivo ha un valore emozionale rilevantissimo. Noi ce ne accorgiamo tutti i giorni nel momento in cui gestiamo la nostra pagina Facebook, ed è veramente un elemento che riesce a toccare le corde più profonde delle nostre emozioni. Spesso però, come ti dicevo, gli stessi abitanti locali non conoscono bene la storia, non sono magari neanche mai andati al faro, mm-hmm, o ai fari appunto presenti nei propri territori. Quindi noi, ripeto, grazie al finanziamento dell'ENPI proviamo a accentuare questo valore del faro e a andare a favorire questa conoscenza qualora non fosse presente nella popolazione locale. Ci vuoi dare il profilo, la pagina Facebook dove si trova? Ma semplicemente basta digitare MedFar su Facebook e ci trovate. Siamo Perfetto. In attesa di completare il sito web, che poi rappresenterà il principale strumento di comunicazione del nostro progetto. In attesa appunto del sito, siamo raggiungibili sul profilo Facebook di MedFar. Grazie davvero Antonello Caredda, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, buon proseguimento. Europost-it. Mediterranean Sites, concorso video per promuovere il patrimonio culturale del Mediterraneo. Un video per promuovere l'importanza del patrimonio culturale e del territorio del Mediterraneo. Immagini per valorizzare la collaborazione e il lavoro svolto assieme, anche attraverso il progetto Archeo Med Sites, nato con l'obiettivo di creare una rete di istituzioni nel bacino del Mediterraneo per la salvaguardia e promozione di siti archeologici e di contesti urbani, per uniformare buone pratiche, diffondere conoscenze, facilitare scambi. Avete delle buone idee per realizzare un video promozionale? Allora partecipate al concorso promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali italiano, dall'Istituto Nazionale del Patrimonio tunisino e dal Ministero della Cultura libanese. Volete saperne di più? Andate sul sito del Ministero dei Beni Culturali, beniculturali.it, e cercate Mediterranean Sites. Abbiamo solo un minuto per salutarlo e per dargli l'appuntamento alla prossima settimana. È partito oltre 300 giorni fa, 400 giorni fa da Barcellona in kayak, e in questo momento è arrivata a Olbia. Ciao Sergi! Ciao Federico, come ti trovi? Io mi trovo molto bene, tu piuttosto? Bene, bene, ancora fa caldo. Ancora fa caldo. Abbiamo appena parlato dei fari della Sardegna, tu hai visto tantissimi fari in questi 400 giorni di navigazione per raccontare le coste europee. Proprio un trailer, la prossima settimana ci racconti meglio il tuo viaggio. Che Europa hai visto pagaiando in oltre un anno di viaggio? Un'Europa, io ho visto l'Europa della costa, l'Europa mediterranea un po', uh-huh. Fino alla costa catalana, la Francia e soprattutto Liguria Toscana, la Corsica e Sardegna di momento. Sono stato una Mediterranea molto gentile, molto calurosa. Con molte avventure. Si chiama Rumbo Mediterraneo questo progetto, che vuole raccontare le coste e il mare con attenzione, andando piano e rispettando la natura. Sergi, ci sentiamo sabato prossimo, grazie ancora, questo grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie alla squadra, Margherita Ina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Carmelo Lauricella, la parte tecnica, l'appuntamento è sabato prossimo, ancora ciao, da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.